Taglio, oh Taglio. Dimmi. Chieste, chieste. Vabbè. Ebbè, bella bella, come va? Ciao, Antonio, tutto bene, dai, tutto bene. Da ne hai? No, qui da cercando, grazie a Dio. Ma ah, male, qua già... un po' di freddo già avrei, detto questa scala. E qui sta andando riscaldamento, dai. Dove è che... quest'anno non vuole mollare il freddo. E anche l'acqua, se per questo. Ehi, l'acqua... mi sta uscendo le musiche, ho sotto le ascelle, Antonio. Una cosa impressionante. Prima eravamo senza acqua, adesso ne abbiamo anche troppa. Ce ne stanno buttando a mare. Stamattina rientrando al Alghero, tutto allagato, cioè le campagne sono piene, non ne vogliono più acqua, poi la stanno buttando via. Io non credo, hai visto il filmato, stanno buttando tutta l'acqua a mare. Poi si lamentano che siamo senza acqua all'estate. Ma oggi stai arrivando più forte, cosa hai fatto? Poco fa addirittura eri Santiago 9. Sto usando il tempo, sto usando il 140. Su una bomba, Adesso sei sceso a 5,6, però c'hai dei picchi positivi quasi a 9. Lo so, sono sceso di watt, sono sceso a 10 watt, capito? Se no così... così sono quasi 50. Però ti rovina la radio. Me l'avevo immaginato. Adesso invece sono 10 watt tondi tondi. Già esce benissimo a Puglia. Sei arrivato a 9 più 15, mi sembra, 9,15, 9,20. Però la radio perde parecchio. Poi hai fatto uno scatto, sei sceso a 9, lì già va bene. E poi ho diminuito ancora e sei sceso a 5,6, però con picchi mostruosi, bellissimi. Ah, va bene, tipo se li metto l'eco diventa se li metto l'eco colto diventa uguale identico a quegli apparecchi e i bimbi quegli apparecchi che avevano una volta per il DX sul canale 45. Li usano ancora, quando c'è un po' di propagazione già ci sentono in continente, arrivano fortissimi con quei lineari da 2 kW o da quanto ce li hanno, boh. Ho visto filmato l'altra volta, stanno usando gli ideali della RM digitali, ma belli lì, quelli sono gli ideali belli che pompano. E poi l'avevi trovato il nome di quell'apparecchietto, stavamo parlando l'altro giorno, io poi sono dovuto andare via, quell'apparecchietto piccolino che hai comprato. C'è il... è solito di cosa? Come portate le recio? Io ho pagato 50, adesso è salito a 106 e su AliExpress è sceso a 76 adesso. Poi ne hanno fatto un altro modello che fa tutta la parte fa tutta la 27 e in pratica e sale fino a 30. Posizione di cessione, più fa VU. Ma com'è il nome? Che cosa devo cercare io? Scrivi il Radotel 950 Pro, poi ti appaiono gli altri apparecchi che sono su AliExpress, ce ne sono, anche se cambiano nome, però ci sono, capito? Ci sono le foto, sono belli, sono veramente belli. Non ho capito la marca, però ho capito 950 Pro, però la marca non l'ho capita. Radotel 950 Pro. Radotel. Eia, 950 Pro. Poi, su AliExpress, guarda, tanto ci sono le offerte, ci sono, capito? Vedi quello, poi ce ne sono altri modelli che hanno un altro nome, sempre cinese. Ce n'è uno che fa tutta la 27, tutta. Anche dal 25 mi pare che parte a 30. Poi c'è la V e la U. Sono un po' questi portatili, sono, eh? Sì, sono belli, c'è una 39,27 a tiranno dentro al pacco, telescopica, è lunga 1,10 m. Sì, Radetel, 950 Pro, sulla, una settantina di euro, dai, su Temu. E in tutto lo costa di meno, io ho pagato 50, figurati tu, più 10 euro l'antenna della 27, capito? Ho visto che funziona bene. Ho provato a lanciarla nel Midland addirittura con l'antenna, con un attacco a L, funziona benissimo. Mi posso fare il barattino portatile, c'è uno in stazione con l'antenna. È tarata bene, vuol dire. Su Amazon invece costa il doppio, costa 100, più di 100 euro, 102 mi sembra. Sì, 102 e 49 centesimi su Amazon. Su AliExpress costa, ce ne sono parecchi modelli, ci sono le offerte, ci sono. Da AliExpress, una settantina di euro. Buonasera a tutti. Ciao Marco, buonasera anche a te. Ciao Marco. C'è propagazione sotto? Sì, io. Ciao anche a chi è, Daniele? Non lo so, oltre Pompugno non sento nessuno io. Vediamo, Daniele sei tu? Sì, confermo Marco, buonasera. Buonasera, ben sentito. Sì, quello dei 50 euro doveva essere qualche promozione speciale, molto speciale, perché adesso guarda 60, 65 euro, una cosa leggera il minimo, però senza l'antenna, è meglio prenderla col cavetto di programmazione, con l'antenna per la 27, naturalmente il 27 trasmette solo in FM però, bisogna dirlo. Ma anche, c'è anche DMR, anche in digitale? No. E quindi la cosa gli manca. Quello è carino, no? Eia. È molto grande, come apparato, è un mattone proprio, però ti riceve tutta l'HF, quindi la banda laterale, quello che importa, anche la M, e poi parte mi pare dai 49 MHz tipo ai 70, non mi ricordo bene, se io non ce l'ho e non mi interessa, però perché ormai io sono andato oltre. E poi tutta la V e tutta la U, forse riceve anche la banda aerea, sì, però secondo me con l'evoluzione, guarda, una volta che li faranno che trasmetta anche in AM tipo in 27 o addirittura trasmetta anche in SSB, allora con un apparato è tutto, sarebbe eccezionale. Sì, la banda aerea che frequenza ha? 118, 136 o 137 così, ed è in AM, però è una palla assurda, cioè è una cosa che a me non piace. Antone riprendi, io sono entrato così a sprombattuto, vai Antonello. Adesso ho visto in vendita, un programmatore lo sta vendendo, un Jackson Pro, bello, con display digitale, cioè fa analogico quello digitale, web, server, gateway, remote controllo, memoria, scansioni, sintonia continua, canalizzazione doge e bip, personalizzabili, talkback, memory, SD, freeway, setup, file, eccetera, poi c'è il wifi, bluetooth, il metro addirittura, andamento a propagazione di distanze dalle altre stazioni digitali, connesse al sistema, eccetera, eccetera. Questo lo vedremo, c'è scritto. Questa messa adesso su, c'era Carlo Leone Sarziano. Propagazione. Io non sento bene Daniele, ma dov'è Daniele? A casa sua. Ittiri presumo, no? Eia. Per pensare mi arrivava una bomba prima, dov'è la prima? Forse era zona via l'Italia, boh, non mi ricordo. Adesso è andata a finire a Ittiri, salutate almeno, un po' che non lo sento. Eia, Daniele, saluto da parte di Vecchio. Caspita, ci sono questi americani quasi a Santiago 9. Allora, Daniele qua arriva 8 e 8 e mezzo a questo smitter digitale, 8 e mezzo, arriva sempre bene, 8 e mezzo 9, siamo lì, e fra, ci vorrebbe l'antenna sul tetto lì proprio, però mi avevi detto qual è il problema, che non c'è accesso oppure altri motivi? Non c'è accesso, bisogna aprire il tetto, togliere le tegole, boh, casino è qua. Ci vorrebbe, come si dice, un lucernaio qui a Vasitas, quegli abbaini, non come si chiamano, boh. Ma io mi chiedevo, ma quando bisogna fare manutenzione alle tegole in una casa, in un palazzo del genere, che non hai accesso al tetto, cosa devi chiamare? Per forza la scala aerea, magari per cambiare un paio di tegole rotte, così è. No, c'è una botola, con una scala salgono sopra nel sottotetto, poi da lì le tegole sono tutte legate, no? con del fil di ferro, per il vento più che altro, per portarsi via il vento, quindi loro penso che taglino qualche cosa, creano un'apertura e poi escano fuori, dai, anche i tecnici, quelli delle antenne. Magari sai, il problema forse maggiore è il fissaggio del palo, c'è una cosa dell'antenna TV che pesa poche centinaia di grammi, è una cosa mettere già un palo e un'antenna para 27, ha bisogno di più appoggio, capito? Macello, va bene, bianco per me, avanti Daniele. Vecchi, vecchi, beh. Mi riconfermo, è un problema, sono già acceso sul tetto. È una bella problematica, io quando l'ho preso a un casino. Già era quasi così, in verità che dovevo mettere in zucca. È anche pericoloso, quando dovevi piattare il palo, nulla era. Adesso qua è più semplice, meno male. Scusa, perché ho un paio di tegole, sto sopra e via, e sono sicuro. Perché come scoperchio ho posto i piedi su nel basale qui di sotto, diciamo, quel pezzo di muro che c'è, e quindi ho un calpezzo anche le tegole. Almeno sei più tranquillo, non devi stare a sventiare. Togli quattro tegole e sei direttamente sopra, non fai altro che ti appoggi con le mani e ti sollevi con una sedia, con una scaletta. E allora? Già va bene, meno male. E se no guai. Un problema, me ne avevo dovuto essere. Vabbè, da me è più facile, metto la scaletta e sono già sopra, dove c'è la gaffa nel fianco. Adesso devo cercare di sistemarmi, togliere il palo vecchio, ci metto il nuovo, ci metto, così sono più tranquillo. Questi sono spagnoli, non sono americani. Mi sa che cioè parlano spagnolo, ma non sono spagnoli. Perché c'è la radio avvicinata, c'è. Però è forte, segnale 9 qua. Sì, quello quando parla quasi mi copre Daniele. Oggi sono H.H. Antonembo. No, me la sento tanto, mi sento un po' strano. Vabbè, quello sì, con freddo che c'è, c'è un casino, capito? Bisogna stare, quando esci fuori c'è umidità, piove d'acqua, poi c'è la freddo, che sta male. A che ore sono? Sono le 18:36, vabbè, ancora è presto, poi entrerà qualcuno, so anche la voce afona un po', e si sente, porca miseria. Io come stamattina sono uscito con l'ombrello, non si sa più come vestirsi. Buonasera. Avanti, buonasera. Ciao Alessio, la compagnia di chi sei? C'è Marco, Daniele, scusate, allora me la metto più. mi sono in bambino. Ehi, Franco sono. Franco, giusto, Franco. Ciao, già, ciao, ciao. Tutto ok, Fra. E via, mi sto finendo adesso. Di asciugare, cazzo, tutto la perdita, un casino. E dove? Mi sento usato il lavello e non so da dove cacchio esce quest'acqua. Senza usare l'acqua me ne scende l'acqua lo stesso. Non capisco da dove. Non capisco perché pensavo che fosse dallo scarico, invece non è da lì perché non è bagnato. Io adesso non so perché è andato dopo un fatto l'altro giorno, sa che abbia cremato qualche tubo. Beh, con che cosa hai soffiato? Con la pompa. Ah, non compressore, che molti usano anche il compressore, può fare anche danno. No, no. E comunque hai liberato, almeno quello l'hai liberato lo scarico. Niente, nulla. Adesso domani viene un altro idraulico, vediamo un po'. Io a casa ogni volta che ho problemi uso quella sonda, quella molla, per adesso mi è andata sempre bene, solo con quella ho risolto. Ma ce l'hai grossa la molla? No, però cosa ho fatto? Nella punta gli ho attaccato un po' di la sagola grossa che usano, che usiamo per fare pesca subacquea, per collegare il palloncino, no? C'è una sagola arancione grossa. In più gli ho fatto qualche bel nodo, in modo da sfondare un bel po', perché a volte trovi quella melma che è talmente gelatinosa che quella sonda ci passa dentro e ne esce fuori senza eliminare il problema, capito? Quindi ci ho attaccato questo ammasso di corda. Oh, ci ha provato anche con la molla, niente da fare. Ci ha provato con la molla e qui ha dato anche 5 atmosfere e mezzo, non vi l'ha fatto. 5 è molto, mica. Non so io quanto posso reggere un impianto in plastica. E poi anche vecchio, acqua calda e acqua fredda un po' si indebolisce col passare degli anni. Bisogna stare attenti con la pressione. Vabbè. In qualche modo bisogna sturarlo, Fra. Lo so. Comunque, non usate quei cavoli di matto, Mr. Muscolo, che sono tutte porcherie che fanno a fare più danno che altro qua. Sì, è vero, non ho fatto nulla, ne ho usato anche uno professionale io, che ho comprato dall'ex Brico. È professionale che lo usano proprio gli idraulici, non gli ho fatto nulla. No, no, io la prima cosa subito la molla, con la molla ne tolgo tutto, capelli, per adesso mi è andata bene. E un altro è un po' lento, fra un po' gli entra anche lì con la molla. Ma ce le hai fine o grosse queste molle? No, la molla sarà neanche un centimetro di diametro sarà. Alla punta leggermente storta, perché tu quando la giri, no? Lei si cerca il punto dove andare avanti, perché può trovare una T, una Y e deve andare avanti ugualmente, capito? E poi nella punta gli ho collegato questa specie di malloppo di cavo, quindi una volta che passa la punta avanti si porta via questo malloppo di cavi annodati e se c'è crema o melma butta. Io arrivo fino al portetto praticamente, devo arrivare fino a dove c'è il collegamento a fine tubo praticamente. Buonasera. Cavallo. Ciao. Sì, quel tubo arriva fino alla braga, praticamente te l'ho detto, se non può fare niente che c'è fosfato e corso, rompere qualche mattonella vicino alla braga, capito? Dove c'è la continuazione del tubo, io ci ho provato anche io con la sonda, fra. Ciao comunque. E niente, no. Si è ostruito proprio, quasi alla fine proprio. E io mi accorgo dal rumore che sono arrivato proprio alla braga. Una volta che arrivo lì, due passate, andate e ritorno e la malagana deve liberare. Però ripeto, senza quel malloppo attaccato alla punta non succedeva niente, cioè la punta passava, ritornava indietro e si richiudeva, era una poltiglia, chissà cosa c'era dentro. E per me l'unica soluzione è rompere un muro, due mattoni, arriverò a fine, tata e l'ho subito capito. Poi si è proprio baricimentato, si taglia il tubo, si mette la prolunga per la notte, contatto di connessione, eccetera. È l'errore che ho fatto io non fare un pozzetto di ispezione, capito? Bisogna sempre lasciare un pozzetto dove tu puoi entrare o da una parte o dall'altra. Lì qualche errore l'ho fatto, là, errore di gioventù, come si dice. Dai, rientra e fai girare. Capo, lo so che c'è qua, davanti già fai girare tu. C'è Alessio, c'è... Viale Gianni. E poi chi c'è? È Marco Condor, è anche da Itri, che non sento più. Forse rilancio a Marco se c'è, così rilancia a Daniele. Ciao Tonino, ben entrato, ben sentito. Sì, rilancio direttamente Daniele, spero che ci senta, perché ci sono questi pseudo ispano-americani che stanno arrivando quasi 9. Vai Daniele. Kappa, kappa. Anche mai salto nel correo, mi sento solamente a te Marco e Antonello, poi gli altri Massi coperti dal QRM. Almeno mi senti, Daniele. Mia Gianni, adesso lo sei già, anche tu prima eri meglio, dai. Riuscivo a sentire, adesso ancora meglio, va bene. E correndo molto alto, cioè. Sì, già, le volte sale a 5, un po' sale a 3. Ma sta aumentando. Chi si mi sente? Adesso un po' l'ho sentito, però io sono agganciato. Chi si mi sente, Daniele? Daniele, lo senti a Franco? Il Franco sento solamente il bip e basta. Allora fai rompere la buccia avanti. Prego! Ciao Antonio, va! Deve sapere l'antenna, attore, buonasera! Buonasera anche a te, se c'è tutto il QRM vuol dire che c'è stazionari. Che qua ci sei, il resto del mondo. Le muove a luna, se ti baciano tutti quelli. Marco, questo apparato, fatto sentire Merani. Noto, oggi sono ancora con quell'altro. Dovrei un po' staccare tutto, cambiare tutto. Comunque, guarda, meno male, se tu hai avuto quel 5555 o come lo vuoi chiamare, 6009, e lo mantessi radio, quindi sai già come esce di radio, esce limpido, come questo. Ha le stesse funzioni del 6009555, quanti lo vuoi chiama, siamo lì, dai. Se no mi tocca staccare tutto, andare alla ricerca, perché non so nemmeno in quale armadio ho lasciato quella link, ho capito? Sì, no, già è così. Comunque ho visto Media Globo e ce l'ha allo stesso prezzo. Cioè intorno ai 200? Ecco, il trasporto sì, più di 200. Cavolo, vedi, però nuovo con garanzia di 2 anni, meglio che niente, cioè usato allo stesso prezzo, no, senza garanzia, no, mi dispiace, no. Almeno la metà deve essere. Infatti, almeno la metà, perché non lo ha lui la metà, quindi srubbeglia. E andare. Adesso ci facciamo un problema. Attore, ciao Marco. Oh Gianni. Gianni? Oh Franco. Dimmi Tony. Ma questo Daniele da dove modula? Adesso è a Itteri. Oh Daniele, mi senti? Ma permettete. Io lo sento a malapena quando non c'è QRM, appena appena l'ho sentito, qualche parola la capisco, però è negativo per me. A me è arrivato bene qua. Anche a me è arrivato bene. Ma strano che lui ci abbia QRM così. Oh, aspetta, ve ne dico una, c'è un bel QRM oggi Daniele. Qua, qualche settimana fa c'è stato un blackout, mi pare di 19 ore. Ho provato ad attaccare il baracchino alla batteria da 12, no? Siccome c'era tutta la zona in blackout, un paradiso, il QRM è sparito. Non dico del tutto, ma rispetto adesso era un paradiso. Quindi vedi che è tutta mondezza elettrica che manda disturbi in aria, capito? Switching, merdate varie. Illuminazioni a LED. E conta che i lampioni erano accesi comunque, io ho fatto la prova anche però sul far del mattino quando i lampioni si spegnevano e c'era già molto meno QRM. Ti immagini comunque 19 euro di sì, 19 euro, 19 ore di blackout. Mai vista una cosa del genere? È già a rischio anche la roba congelata, non devi aprire che è meglio. Mi ricordo, passando in macchina sulla via centrale di Alghero, nei pressi della stazione, c'è un punto dove cosa impressionante, ti sale il QRM, non ho capito, o c'è qualche centrale elettrica vicino, qualcosa che non va, c'è comunque, ma ti disturba in una maniera impressionante. Boh, avanti Marco. E io faccio girare a Antonello. Vai Antonè. Dove sera stavo bene, vieni in sé, dove? Di subito ne avevo, non ci passava manco un cane lì in macchina, figurati. Si modulava bene, parlavo con Centro Sardegna, tranquillo, con la Spagna, tutti i giorni. QRM massimo quando ho portato il 80 di lì, e ho attaccato la Grand Prix, e c'avevo massimo due di QRM, due o tre, non di più. Tra un po' quando arriva la propagazione ce ne andiamo lì all'Argentiera, piazziamo la canna da pesca e iniziamo a fare BX faccia al mare, lì. Avanti Tore. Girandi da salgo sul tetto e me la porta presso. Bene va. 70 centimetri lunga. La mia è 8 metri, no, è un'altra però quella che è portatile, quella è 7 metri, ma già va bene lo stesso. Vediamo un po' che rilanciamo. Tonino. Comunque Marco mi arriva più forte di Antonello Pomponi, eppure c'è una bella posizione Antonello, però come sono io rispetto qua Marco arriva meglio. Ma sai cos'è? Mo te lo spiego, guarda meglio, così è con e così è senza, c'è il trucco, Antonello adesso è liscio, con attacco arriva più forte. Usate la scarpetta, maledizione, e io piccolino c'ho un liscio, 5 e 4 pulite non uscite la testa, faccio né scarpetta, né pantofola né si vale. Cos'è Marco? Yeah. I picchi di modulazione di Tonino come li vedi tu? Allora Toni, premi la portante muta, poi prova a fischiare. Ha proprio a fischiare oggi, mi si è passato un dente giù, mi ha seccato un pezzetto rone forte, mi si è rotto un pezzo di dente, ma fa un po'. Mi viene male anche a fischiare, aspetta, ma non zitto prima. Io vedo ogni tanto qualche picco positivo, però ti spiego, Franco, che la risposta di questi Smitter a cristalli liquidi non è come quella della lancetta, ma per caso perché vedevi i picchi negativi? Qua non li registra, se è quello. Sì, io li vedo negativi, non so perché li vedo negativi, infatti volevo chiedere qualcun altro, chi è che ha uno Smitter? Forse Alessio. Ali, tu come li vedi i picchi negativi o positivi, quelli di Tonino? No, sono positivi quelli di Tonino. Capito. E da cosa dipende allora? Che livello negativi? Anche a me lo fa nella Fayette l'MS200, appena ricezione. Dammi picchi negativi, me lo fa anche in trasmissione, invece l'FM rimane stabile. Infatti devo cercare il manuale il tecnico di quell'apparecchio lì e cercarmi, come si chiama, dove c'è la M e dove c'è l'FM, in modo da fargli la taratura dello Smitter, capito? Sta fischiando, adesso non sta fischiando più. Sì, adesso va bene. Non lo so, perché altri li vedo positivi e alcuni negativi, quindi non è che sono tutti negativi o tutti positivi, non lo so. Avanti Gianni. Gianni. Brecche. Avanti, chi è? Buonasera a tutti, Luca da questa parte. Ciao Luca, ben sentito. Ciao Luca. Ciao Luca. Salutoni a tutti. E se volete sapere la mia furbata qual è stata, lavarmi la macchina oggi. E adesso ho guardato le previsioni e domani mi va l'aria. Io infatti non le lavo più, tutto l'inverno non la lavo, perché tanto se è la stessa cosa che capita a me. Anzi, la mia si lava proprio quando piove. Vabbè, ma la mia è nera e quando non sta piovendo con l'asciutta si vede il fango sui fianchi che non vuole vista. No, la mia è perfetta, è un colore che è praticamente tra l'acciaio e il beige, diciamo sembra un beige, ha un nome tutto strano, tipo basalto, grigio basalto, è perfetta, non vedi la polvere. La mia si vede, la mia è un verdone scuro metallizzato e si vede un bel. Pensavo se vedi la mia, quando piove, diventa pulita pulita. E oggi gli ho fatto fare il trattamento, quello Polish e poi il Teflon, così l'acqua scivola ed evita di attaccarsi anche lo sporco. Beh sì, anche quella è una buona idea. Dove lo fai? Nell'autolavaggio? Sì, l'ho portata all'autolavaggio oggi. Ma tu c'hai sempre la terra coricata? No, l'ho rimessa in verticale, ma diciamo non c'è manuta. Anzi, mi sembra che qualcuno lo sentivo meglio in orizzontale, quindi andavo in direttiva, stavo andando. Comunque, sempre 9,20 qua, sì. Però anch'io sto usando vitamine. Vabbè, comunque, in linea d'aria non è che siamo autorizzatemi. Guarda adesso. Prova. Così è liscio. Dai, liscio poi prova. Così è liscio? Poi attacca le... È così, è agganciato. Aspetta, devo guardare. Così è accordato, dai. Di poco sale, dai, non è molto. Oh, questi Smith sono una truffa. Sono una truffa questi Smith digitali. Cioè mi passa da 9 a 9 più 30. Dovrebbe avere 4 kW per aumentare così. Ma io c'ho proprio l'ago, quindi c'ho tutta la scala. Poco aumenta. Sì, ma quanti watt sono, bene o male? Non c'è l'ago. Qua ne segna 350, 400 di picco. Ma ammette che siano 3 Santiaghi, ma non 6 Santiaghi, 5, 10, 15, 20, 25 e 30, figurati, da 9 a 9 e 30, una cosa impressionante. Ciao Claudio, avanti. E allora? Lo sapevi? Vabbè, no, qua fa costare da 5 a 9, va bene, sono giusti i watt, 300. 300 watt sono netti fra quelli, noi, cosa 400, 300, 320, non di più. Va bene, buonasera a tutti. Ciao Claudio, sempre l'ho sentito, anche noi un po' in lontananza ma l'ho sentito, rilanciatelo voi perché per me è un po' negativo. Ciao Claudio, ciao Sapì. Io Sapì lo sento, ma non mi sente qui, non lo lancio la manco, avanti, Luca, ciao, buonasera. Aspetta, Sampei sei tu? Non è lui, avrebbe risposto, o non intende nessuno. Ma non era Daniele, no? Forse era Daniele, Daniele tu eri. No, io sono qui. No, era Sampei. Daniele, tu mi senti a me? A me non mi senti. Ci vogliono i watt, bisogna avere almeno un kilowatt lì per parlare in città. Sono le posizioni, ma tu immaginati che io sempre lo sento, Santiago 7, ma poi sì, Santiago 7, problema mio, Edo mi intendi? Ciao Daniele, buonasera. Ciao Daniele, buonasera, ascoltato. Però ho lanciato a Luca dici sì. Luca c'è presente? Allora riprendi quando ti rilancio, invece pensavo a lavarti la macchina. Mi è appena arrivato un messaggio di Angius Costruzioni che vuole bitume lunedì mattina e adesso mi devo adoperare. Oh, bitume c'è, ma non te ne volta di quel arruolato? No, noi trasportiamo bitume liquido in temperatura a 150 gradi, caricato sulla base di Santa Giusta. Ma mi serve quello che rullano, che è un materiale che chiaramente devono smaltire in discarica, ma io glielo faccio smaltire qua nella mia strada. Nel poco buco il gas, l'acqua si sta portando via tutto, una rottura di balle, guarda, se metto il duvenale lo porta via lo stesso, mentre invece quello, mi hanno detto, è micidiale, perché lo spargi, stesso con la pala, una paletta, lo spargi, poi ci passi sopra, diventa durissimo, non lo porta più via. E quello è asfalto però, non bitume. E qua l'asfalto che tolgono là, è quello lì, che poi è cos'è? Bitume, è quello lì, rullato, lo so, quello lì mi serve. Lo sai chi ne ha, no? Beh, in piazza. impianti di bitumaggio in zona c'è Angius a Monte Alvaro sulla strada dei Due Mari, appena uscito dalla rotonda per Sentino, fai 2 chilometri e c'è Angius Costruzioni. A Badde Ramuddu, che è all'incrocio della strada per Aidero dove c'è lo svincolo Baraz, sulla sinistra andando vedi i ripetitori e lì sotto c'è il, si chiama Icos, e quello lo stesso, quello fa bitume, sono i più vicini in zona. Poi ce n'è uno alla zona industriale San Marco, impianto di bitumaggio, e poi un altro più vicino a Chirivani. Questi tre ci sono in zona, nient'altro. Ma non lo ricapirò più, oggi lo dico, siamo amici, se ne manda un Treassi, qualcosa del genere, me la scarica lì nell'ingresso, poi chiamo la palla e lo faccio spargere, perché sta portando via tutta la strada, cazzo. Ma come voglio pulizzare lì? Con l'altra macchina mio figlio ogni volta che entra nell'ingresso tocca, cazzo. Davanti a chi tocca, Tony, riprendi tu e fai girare, dai. Ecco, poi tiro uguale anche da me, i fossi che ha fatto l'acqua è un casino. Ma Trince, ma tra poco ho detto con la macchina dritto, praticamente piano piano, io fai 150 metri di fare a cazzo da calcetto. E purtroppo mi hanno detto che sin quando non smette di piovere non si può più usare. Aspettiamo. Aspetta, perché non asfalta? No, la campagna è bella così, la mazza di rivaria. Vabbè. Ok, avanti fra. Ecco come te, Antonio Barago, sarà te Fazzi. Vabbè, io però le dirà che ho detto di, vabbè, non ha detto proprio neanche la compagna, ma l'ho partito a tutti i giorni, secondo me, gli amici, è puntuale. Ma Vittorio lì non fa un cazzo. Vittorio è un cattagno, non vuole aver a dirlo, lascia per lo Cosco 40 anni, per carità. Avanti fra. Tu casino quest'anno, stamattina ero lì a Arcone, la strada che c'è lì vicino alla Busata, proprio dove c'è quel tipo che sta dicendo lui che fa il catrame, e la strada no, è impercorribile, canaloni dappertutto, si sta portando via tutto il materiale che avevano aggiunto, l'ha portato giù da una strada asfaltata, proprio un casino. Avanti Tore. E l'unica cosa è scendere a passo a portare e coprire con quel coso lì. Infatti dove abita mio cognato è la stessa cosa. Ci hanno messo quel bitume lì ed è buonissimo. Scusate, bianco per me. Quello ci vuole, sì Marco, quello ci vuole, ciao, buonasera. Perché l'anno scorso abbiamo fatto tutto il coso di ghiaccio a Tavanale, che è stato portato tutto, no, non fa. Addirittura sono intervenuti anche perché come scende la canala di sotto della strada, si intasa di terra, ne scende la terra fuori, va nella strada e la deve pulire, capito? Infatti sono intervenuti quelli delle pulizie e l'abbiamo fatto fare. Una rottura di balle, cazzo, poi cioè, sta mangiando tutto, va a fanculo. Daniele, avanti. Daniele. Avete che sono allontanato. Non c'è, riprendi, io riprendo a chi tocca. Ciao Claudio, buonasera. Mi è rientrato, sì? Ciao, vabbè, sono andato a asciugare. Che abbiamo rilanciato, non l'ho immaginato, vabbè. Adesso domani viene l'idraulico e vediamo. Cavagallo. E allora, Claudio? E infatti non ha capito Claudio, no, già l'aveva capito, non c'è proprio, no, si deve essere allontanato, va bene, a chi tocca, ho sentito che ha detto Luca, buonasera, anche a Luca, e riprendete la Luca, poi fai girare. Sono qua che sto rintracciando autisti e spostando mezzi. Che zona sei Luca? Una borra lo fai. Marco. Dove? Leia, già siamo qua. Allora, non hai risolto nulla, no già. No, deve venire domani l'idraulico. L'altro viene domani, perché questo dice che lui ha sempre risolto, che non ha problemi, che c'è una sonda di quelle grosse che riesce a stanzare, però me lo auguro. La sonda quella da 2 mesi ci vuole. sparare ci vuole, è anche lunga. Solo che c'è una ferita che non capisco da dove. Non sto usando l'avello e mi perde acqua da sotto la cucina. E non si vede sotto dalla piletta, come si chiama? Cosa? Non si vede se perde da tutti quegli snodi, quegli attacchi a vite, quelli in pratica c'è sotto, no? Sì, ho controllato, non c'è nessuna perdita, non c'è nessuna perdita. C'è la lavastoviglie lì vicino dove c'è l'acqua. Lui ne ha messo un tappo al scarico della lavastoviglie. Ne ha messo un tappo perché ha detto che quando pulisce se no se ne va tutta la roba nella lavastoviglie. Ne ha messo un tappo e ha staccato il tubo. Non sarà da quello. Allora, l'attacco della lavastoviglie devi fare una curva più alta dello scarico in modo che dal lavandino non vada a finire dentro la lavastoviglie, capito? Devi fare una curva più alta e poi attacchi al tubo. Sì, si è fatto così, solo che quello che c'era prima, perché mi ha cambiato tutti i sifoni, quello che c'era prima il sifone aveva la filettatura, questo invece è incastro, dovrei tagliare il tubo, incastrarlo e mettergli una fascetta, capito? E il mio com'è? Sai, adesso c'è un dubbio. Aspetta, vado a vedere, dai. Riprendi? Vabbè. Lo risolverà domani. Si è staccato il telefono, l'altro, e non si può rintracciare. Perché quello lì l'impianto me l'ha fatto lui, ma lo deve stare lui. Ha cambiato... Prima non perdeva, adesso che ha cambiato tutta l'ambarada, mi perde, non so da dove, però... Sicuramente sarà Gianni l'attacco del tubo della lavastoviglie, sicuramente, perché a me non mi ha fatto fare la curva, prima c'avevo dritto, adesso mi ha fatto fare la curva e non perde più. Ma se non ne sto mettendo di acqua dentro, non capisco, non riesco a capire. Non ne sto mettendo di acqua adesso, sto prendendo solo il rubinetto con la bacinella sotto per lavare i piatti, per non scendere giù. Mi metto la bacinella e fa l'aromatesi, non capisco perché. Oh già, tu hai la lavatoviglie, giusto? Sì. Attaccata dove? L'acqua da dove la prende? La prende dall'entrata che c'ha, dove ci sono gli attacchi. E ce l'ha il rubinettino lì? No, mi pare di no. E mi se vero rubinetto, quando lo usi, chiudilo e vediamo se ti perde ancora, se no sarà da lì. Tu il rubinetto me l'hai messo solo nell'acqua calda, nell'acqua fredda non c'è. Ci vuole l'acqua fredda proprio il rubinetto, no nell'acqua calda. E me l'hai messo tu, Mitturi, quello piccolino. Ma sei sicuro che ti ho messo l'acqua calda, non la fredda? Sì. Che quando siamo andati a chiudere, abbiamo chiuso e scendeva lo stesso. E allora l'ha richiuso, ha provato l'acqua calda dell'acqua calda e forse va bene. Non fa nulla, serve lo stesso. Luca Bianco per me, scusate. E allora ci vuole un altro pezzo, dai, su due. Sono quelli chiusi di miglio praticamente. Magari, dipende io. Comunque qui è a vite o Gianni, il mio l'attacco è, anche se c'è una giunzione in gomma, però l'attacco è a filettatura. E un po' si è rientrato Claudio. Negativo. Ma chi tocca, Tore? No, io già nell'attacco del tubo del corcio, nell'acqua c'ho il rubinetto lo stesso, il rubinetto piccolino. Se c'è qualche cosa mi chiudo quello e sono tranquillo. E anche io c'ho il rubinetto da resto nel bagno, sono andato a chiudere e non funzionava più dopo tanti anni. Non sapevo come va, stava perdendo il flessibile, allora sono dovuto scendere giù e chiudere là. Quelli a sfera sono? Di quelli che si svita il tappo e poi il tappo fa anche da chiave. No, ma il rubinetto di quelli a sfera o di quelli a girare, di quelli a manopola? No, va avanti. Perché facciamo uno sbaglio di non usarlo mai, invece almeno una volta al mese bisogna dargli due girate, apri e chiudi, se no si forma quel velo di calcare che è un casino. Ma non capisco cosa cacchio sia. E adesso devo chiudere l'acqua, perché se no cazzo qua, mi si allaga tutto. Casino è. Oh signore. Dice che non è date mai. Hai ragione, una volta al mese bisogna operarlo, chiudere e lasciarlo uscire. Scusa, già, ma qua viene, abbiamo un mezzo mio, metto e lo chiudi direttamente. Lo dice, vai, sì, tranquillo. Guarda la pezzina col pinetto là. E adesso lo vedete. Devo venire domani l'idraulico e vedere che cosa bisogna fare, perché però tutte le volte non posso stare scendendo l'acqua, perché io sto asciugando tutta l'aria tutta la sera. Non puoi stare sempre a perché di praticamente l'acqua, un rubinettino è una cazzata, quindi vedi perché perde, domani lo voglio far vedere, così se riesci a risolvere con il rubinettino ci apposta la testa sott'acqua quando viene a lavare, la lavazione di piedi, tutto qua. Avanti, a chi tocca? Se no rischi di fare danno sia alla cucina, al mobile, o a quella di giù, ma è ancora peggio. No, quello no, perché ci sono i piedi, ci sono i piedi con i zoccoli. E ho dovuto togliere i zoccoli tutto per guardare. C'è anche la centralina del riscaldamento, dietro ho tolto tutti i cassetti, perché risulta proprio a livello dei cassetti, la cassettiera. Ho tolto tutti i cassetti, il pannello di dietro non c'era perché l'avevo già fatto togliere da quando l'hanno piazzata per arrivare a accedere alla porticina che c'è. Ma non c'è nessuna perdita lì. Oh già, non mi dire che c'è la centralina dietro i mobili? Sì. È carino un macco che ti ha fatto una cosa del genere, raga. Che ha costruito la casa di lupo, se proprio vuoi sapere. Sì, so che vuole punto e sforzo che ci puoi accedere quando vuoi. Lo so. E purtroppo la centralina me l'hanno fatta dietro la cassettiera, però siccome io ho pensato che un giorno dovrei metterci le mani e cose del genere, allora gli ho fatto togliere il pannello di dietro che c'era dove c'è la cassettiera e lasciarlo libero. Quando tu togli i cassetti arrivi direttamente alla centralina. Già ho capito. E ci vuoi bene, tranquillo, c'è lo spazio. Comunque già, da dove esce quest'acqua non si riesce a capire, così è. Qua ho provato con la pila a cercare, a toccare, a fare, non riesco a capirlo, non riesco a capire da dove possa scendere. Allora stamattina l'avevo asciugato, poi c'è tutto, l'avevo asciugato, c'è tutto asciugato, bene. Questa sera, dopo pranzo, ho lavato i piatti, però ci ho messo la bacinella sotto per non scendere. E poi la bacinella l'ho buttata nel water, quindi non ho buttato acqua. Sì, perché uno è lo scarico e uno è l'acqua della rete. Non lo so. Riprendi, Tore. L'unica cosa è guardare bene bene. Non due uccelli, ma quattro uccelli bisogna ciappare. Poi già, è pericoloso, sa cos'è? A furia di rilievo, farà in terra, potrebbe filtrare sotto e se anda all'abbassamento di sotto è un casino. L'avevo già constatato poi. E vabbè, non mi puoi dire se maravoglia, la carità, ne ha già abbastanza. Vabbè, là, ci sentiamo, io vado e devo controllare. Capa, io a volte sai cosa faccio quando faccio certi lavori che cambiano i flessibili, prendo un po' di carta igienica e gli faccio una specie di fiocchetto e vedo un po' se si bagna la carta, vuol dire che c'è perdita. Prova, anche quella è un'idea. Avanti, Torek. Sì, infatti con la carta igienica è l'unica cosa. E sapere dove è proprio. Ma è un po' strano a me, che vi sia sempre l'abilità. Ma com'è, immagino buttare i rubinetti in tutti i rughi io. Io ce l'ho nella centralina quei rubinetti lì. Ogni tubo intero praticamente va uno al bidet, uno a quello, uno caldo, uno freddo, però anche lì quando vai a toccare le guarnizioni ne saltano quando non li usi e alla fine non chiudono più. È un casino. Beh. Brecco, brecco. Chi è avanti? Mi copiate, salve, buonasera, sono Fernando. Fernando da dove? Scusa, non ho capito il passaggio. Ho capito, Fernando da dove? Sari. Dove? Sassari città. Io ti ascolto un po' bacino, sicuramente siamo zone un po' coperte. Vediamo un po', Marco, lo senti? Sì, Santiago 8, segnale 8, radio buona. E beh, Tore, ma quell'apparato lì, come mai proprio quello Avevi pensato a quello e non ad altri, quelli più moderni anche? Ah, mi sono... non lo so, mi è entrato in testa quello lì, ti so dire il perché. Cari etichetta, è migliore, è tutto il meglio visto, perché quelli moderni moderni no, non mandano assai, preferisco più quelli vecchi che c'hanno una volta. Ciao, Fernando, la sentito con la primiera. In che zona sei di Sassari? Grazie, grazie, sì, sono un vecchio ciuchì, ma dopo una trentina d'anni che diciamo sto ritrovando a montare un apparato, adesso in macchina giusto. E comunque io sono Tonino Kawasaki, se tu sei più di 30 anni mi conoscerai senz'altro. Hai copiato Fernando? È negativo. E capita, è di sì. Ho detto io sono Tonino Kawasaki. Scusami, non ho capito. Tonino Kawasaki, ok come la moto. Ok, Kawasaki come la moto, ben sentito, salve. E beh, se tu hai più di 30 anni, io sono più di 50 anni frequenza. Va bene, ok. Di Mirko, mi hai mai sentito tu prima? Scusa, che zona sei tu? Sei in macchina, giusto? È strano che non mi occupi, perché io sono zona San Camillo, sono zona alta, e prendo tutta quella zona. Vabbè, non fa niente. Bene, vedi, arrivi fra. Anch'io Fernando l'ascolto, come si dice, pio pio. Fernando, ma per caso avevi un nominativo? Molti anni fa. Avevo come nome, un vecchio nominativo Delta. Delta? Ma sicuramente ti avevo sentito anch'io, boh, non lo so. Vediamo forse c'è Alessio, ci sei, Antone? Oh, se mi avete chiamato dal telefono io. Sì. Ti avevo chiamato un paio di volte. Sono qua, stai un attimino che sto cucinando. Ci stavo fra pochi minuti. Ok, uno sta cucinando. Claudio, riprendi. Ma io vi mollo, vai, momentaneamente, perché sto facendo cose. Devo fare un po' di telefonate e niente. Poi devo anche muovermi, perché è già tardi per la cena. E ci sentiamo dopo se siete qua. Là c'è anche Daniele, ho sentito. Daniele. Ecco, qua, ci sono. Sono fatto un attimo. Lo senti a Franco? Mi alzo mezzo al QR, me lo sento qua. Perciò QR ne ha tre. Sento parlare, ma non sta arrivando perfettamente. Oh, vabbè, non ci sentiamo perché siamo uno di fronte all'altro. Come Tonino sente Alice Sampi, ormai non mi intendi. Vabbè, pazienza. Poi ci sei ancora, riprendi e fai girare. Cappa che ci sono. Ben entrato, là. Ok, forse comunque sono le zone, dai, perché a te corri in foto della parte e lì non arrivi, lui non ti sente e tu senti a lui. Come questo Daniele, a me non mi sente, io lo sento forte. Vabbè, avanti, Tore. Buonasera Daniele, vabbè, a me bene mi senti. Ma neanche a Tore senti, a Tore squalo senti Daniele. Sì, qua. Ma intanto il QRM è nuovo e quindi sento solamente chi ha radio forte, capito? Ho dato segnale la radio e poi forte. No, ho capito. Vabbè. Ciao, bene il QRM, tu, e ti senti mezzo al QRM, perché c'è la radio bassa, capito? E poi, ma è, non lo so, io a volte, a San Pino, lo sento anche se no, hai capito? Ma devo mettere di bannuta, ma anzi, dice che mi sente in lontananza. È un problema, Giulio. Va bene, mi allontano un attimo, avanti Marco. Sì, ah. Tore, nulla mi dici, non mi dici niente. Cosa ti devo dire? No, a me ero anche fissato con il Galas, ero fissato, ma da voi ha giovito visto e mi piace più quello. Non si sa perché, boh. So che il Galas è troppo umano, e quindi non va contento di Guido, che è più minorino. Ma quindi differenza non hai sentito, questa era Linco, con lo stesso microfono del 7009 che avevo poco fa, questa era Linco, messo a 4 watt, adesso te ne metto 10, 12, quanti sono, boh. Ecco, full power, 1, 2, 3, 4, 5, dimmi se ti soddisfa. A voglia, certo, se va benissimo. Va benissimo, sì. No, no, scusate, telefono, allora il mic originale di Chichia, esce benino, però bianco per me il telefono. No, ma sta uscendo benissimo Marco, ma qualche apparecchio ha apparato attacchi, esce bene Marco. Avanti Tony. Capo, anche fuori va bene Marco, proprio perfetto, radio bella amplificata, che segnale ultimo. Vabbè, io sono Fra, Pio Pio, piccolino, fuori sassa, raga, e non mi sento, raga. Ma qua c'è 9 più 5, però quando parli scende un po' il segnale, non capisco perché, cavolo. E poi l'ho fatto tarare da poco, questo apparecchio. E poi è tutto regolare, guida picchi positivi e le modulazioni. Poi non lo so, Cosa potrebbe essere, che ne so, andare... Come, l'accordatore, no? Per esempio l'uso scala 100 watt l'accordatore e mi dà picchi positivi, scala 10 negativi, cioè è un casino questi strumenti, insomma, è un po' che ci è rimasto, vediamo un po', Fernando, mi senti? Sì, ti sento. Fernando, ci sei? Io ci sono, mi copiate? Io non lo sento, Gianni? Ti sento a te. Cos'è? Abbiamo parlato assieme forse? Ho detto Fra, ti senti Fernando, ti era anche risposto. Allora non lo sento io. Fermate, manco io lo sento. No, io sì. Fernando, mi senti, sì? Mi porta chiaro, ti sento benissimo. Da dove stai modulando? Io sono fuori Sassari, sono praticamente vicino all'ospedale San Camillo. Ah, ok. Io sempre a Sant'Orsola, ti sento fortissimo, insomma, sento benissimo. Sono aperto per quella zona, capito? Quindi, hai capito Franco? L'ho sentito adesso? No, negativo, sicuramente si è svuotato da dove era prima. Prima, quando ho detto che era Sant'Orsola, lo sentivo benino, adesso invece l'ho perso proprio. Eppure non ho neanche il QRM, sento che parla ma non lo capisco. È sempre a Sant'Orsola e me mi ascolta forte. Che è un'antenna piccolina, un'antenna... Sta parlando? Sì. Una quantità di centimetri di lunghezza, quindi non è molto efficiente. Adesso sto usando un'antenna molto piccolissima, automaticamente non so se ha detto 30 centimetri l'antenna. Non lo so, Fra, comunque c'è un'antenna piccolina. Io invece lo sento, lo sento. La radio è forte adesso. No, se non lo senti tu che sei più vicino. Non credo. Elisabetta di Gazzo, lo sentivo bene, ma come sono spostato non lo sentivo più. Ma settore, mi stai collando lo smitter? Sì. Vabbè, 10 watt sta uscendo questo apparecchio. Io ho messo una specie di cuscinetto per non sbattere a fine corsa mia la lancetta, to. Senti, non si può essere diventato. Allora si è accurato che se 100 watt cosa devo dire? Fate due iri, fate. Oh Franco! Dimmi Tony! Guarda lo smitter, se cambia qualcosa, io ho questa remetta con la piazza usibile, non ci ho preso, guardami! Ha cambiato qualcosa adesso? Sei sceso due volte di segnale, però ti manca un po' la radio. Vabbè, la faccio così allora, dai. Vabbè, allora questo qua deve esserci con di potenza. Partirà da 2 watt, 5 watt, 8 watt, va a fare del genere. Due scatti hai fatto, mi è sembrato che hai fatto due scatti. Sì, io ho LO, mid HI praticamente. Allora, qua sto scendendo, vedi. A mid, adesso LO. Poi di nuovo, mid e HI. Allora, sì, quando è basso il segnale, stranamente si abbassa anche la radio, invece la media e la massima potenza va bene, la radio è più forte. Vai, lo lascio così, da sopra modulato così comunque. Non so, aumentando il volume di questo microfono preamplificato, se ne faccio casino, aspetti. Com'è adesso la radio? No, per me è meglio se la bassi, ti capisco meglio, per me, per le mie orecchie. Quindi lo lascio così questo passaggio, Sì, è fortissimo, la radio è forte. sempre nessuno lo sto usando, dai. No, va bene, ripeto, è fortissima. Per me puoi abbassare quanto vuoi, ti ascolto benissimo. Chi c'è rimasto? Claudio, ci sei ancora? Negativo, che rilanciamo? Luca, deve essere entrato Luca, Luca? Nemmeno. Rilanciate a Daniele, che lo sente. Davvero, mi sente. Daniele, mi senti? Ci sono allontanati tutti, da. Bisogna fare l'appello, adesso non so più chi... Perché anche Gianni mi sa che è andato via. Marco, Marco, ci sei ancora? Nemmeno, Tutti andata.